attenzione canale 10, attenzione 10, cambio. Sento male, non ti sento bene, dove sei? Le febbre? Cosa? Dove sei, dimmi? Dove ti trovi? Boh. Non ti sento. E siamo appena dormiti, ma non ti sento cosa dici, capito? Adesso sì. A momenti non ti ascolto, dai, che esci a tratti. Ti ascolto a tratti, cioè non è che esci a tratti, ti ascolto a tratti, capito? Nel senso che sei un po' più basso, un po' più alto, a volte ti ascolti, a volte no. Sì. Boh. 1 e 1. Attenzione sul canale 10 se mi ascoltate. Adesso sì, chi sei? A tratti ti ascolto. Dove sei? Aspetta che metto le cuffie. Attenzione canale 10, avanti. Attenzione amico. Io sono a Sassari, tu dove sei? Sei sotto casa mia. E allora c'è qualche cosa che non va perché io non ti ascolto. Esci basso basso. E guarderebbe più forte di te, figurati. Non ho capito chi sei, non riesco nemmeno a decifrare chi possa essere, perché sento la voce ma non capisco cosa dici. Chi? No, non ripeti perché non ho capito. Bruno sei. Siamo Bruno? Bruno, adesso sei uscito. Ma c'è qualche cosa nella massa che non va, stai uscendo basso basso, io pensavo fosse qualcuno là fuori. Non ti sentivo perché arrivi basso basso. Hai qualche cosa nella massa che non sta andando, Bruno, controlla anche l'antenna. E anche il piede dietro. Io pensavo che fosse qualcuno là fuori, infatti mi ho messo anche le cuffie per ascoltarti. Sei su 10, sì. Io sono in AM, sì, sono in AM. Non lo so se dipende da me o da te, ma io ti ascolto bassissimo. Prova a toccare il piede dietro, blu, e anche l'antenna, a vedere se esce più forte. Te lo dico subito se è quello. Bruno! Adesso ti ho sentito anche se è basso, ma ti ho sentito chiaro. Ma hai cambiato il microfono, hai cambiato qualche cosa, era come di prima. Adesso va vicino sei adesso. Ti ascolto più chiaro adesso che quando ti ho detto che eri sotto a casa. Figurati, adesso sei più chiaro. La voce si sente bassa ma chiara. Non stavo uscendo. Qui è tutto sotto controllo. Qua c'ho gli strumenti che segnano. Che baracchino? Ma magari il baracchino non c'ha nulla, magari è l'antenna. Perché più che altro a noi mi sembra una questione di antenna, di ricezione e di trasmissione. Dovrebbe essere o è l'antenna o sono parte dei finali, che adesso. Via. E comunque, Bruno, non lo so. Io ti ascolto così pure. Adesso ti sento più chiara la voce. Forse sei andato col QRM, è quello. Attenzione sul canale 10, c'è qualcuno? Gianni, lascia così che ci dirò il segnale normale. Aspetta un secondo che... No, ma mi segna sempre altri stazionari, aspetta, perché sto provando a regolarlo. Allora. quelli a benzina. No, a benzina, poi il motore è 450 cilindrata, sembra un Ferrarino, che è bello, rosso, nuovo, nuovo. E quando c'è la campagna ci vuole, perché bisogna tagliare la sera da buco di augurio, un casino. Questa mera è un bel alto, ha capito? Certo, 109 euro già, ma bello veramente. Tipo Jack Massimo, e da cosa è comando, come cacchio si chiama, sì, come? Cazzo! Vabbè, se per piccoli lavori va bene, dai, tanto tu non è che devi farne tanto. No, le cortine va bene, ma era troppo alta, faceva schifo, che. Infatti mio fratello ha detto, il capita, va bene, più buono, più manno lo cortina. C'è più spazio, ma più spazioso quando l'avevo tagliato. Io l'altro che c'avevo, già. E siccome mi vibrava tutto, stavo andando male, non so cosa è successo, me la gioventù, ho recuperato tutti i soldi, e l'ho preso quello male. Ho fatto bene. Comunque qua può essere Tamola, sicuramente è Tamola col vento si è spostato. Che cosa? Non ho capito. Tamola dell'antenna. Ah, e beh, il vento ce n'è stato forte. Sì, ma l'antenna non l'ha ducata, capito? Il fatto è quello, l'antenna è tranquilla. E la molla forse che si è spostata, o si è mollata, perché se non è 5 di stazionare, non ho mai avuto, quindi era 1-1. Poi ho provato anche con le... con Saturneco, con il nuovo metro Saturneco, mi segna 1-1. Ma chi c'era qua già? Era Bruno Uragano, ma non stavo uscendo di radio, usciva basso basso. E chi? Bruno Uragano. E capita, e c'è sempre quell'antenna da casa al balcone. E lui? Sì, Bruno, però sempre in basso, sì. Non lo sento già. Passo basso, sì, Bruno. Secondo lei lì c'è il problema di massa. Non lo sento. Bruno, te la compri l'antenna mia, roba? La turbo 2001, così almeno non ho l'antenna, non vai, non ci che tiro. Vabbè, briciola. Vieni a Cicomino, mi. Cicomino. Ui, granita. Allora, ma non è? Tutto a posto. Che si dice? Che si dice? Che si dice? Che si dice? Ma non è? Sarà lui. Che è basso che ci sei. Adesso mi ha abbassato me, chi è? Ma no, non è da me, no, tu, mi stavo spaventando. Prova, ma non è. Sì, a me sì. Sì, ma abbasso il radio, il segnale è buonissimo. Ma no, adesso? Adesso sei tu. C'è qualcosa male, il volume è basso. Lascia alzatelo il volume, per pacco, per dici, per di grittina. Adesso mi ascolti, sì. Ah, pompa. Io non posso usare, Luca, non senti un po' basso basso, buletto, che è strano. Andava. Diciamo che non è. Ah, mi si è abbassato, non ci ho fatto caso, si è abbassato il volume del microfono. Infatti arrivo in basso basso, insomma, ma quelle, ma si capiva da me. Ma guardi tu lì. E quindi ci ha fatto un travaglio. Allora. Dell'altro giustizzatore l'ho tenuto, non l'ho fatto via, capito? E quindi sono per andare giù. Mi sono preso il polpo, mi sono preso che c'è il giustizzatore e sono 8 figli, sono 4 intimità. Allora sono tutto bene. Va bene. Se ci vuole campagna già serve sempre a pulire. E vabbè, ci fai su, ti vai a tagliare. Che sono caro io, che non devo fare i travagli. Se mi chiamano io voglio minimo minimo 30 euro a ora. Gianni. Ehi, Abraiso sei tu. Ah, ho toccato il cavo dell'antenna dietro, gli avevo fatto il piede, cazzo, adesso lo tocco, ed è rispettoso, mi è andato male, va a allora, ti ha giudito che l'hai visto, che c'era la massa che non andava bene, adesso sei tu. Sì, anche io lo sento adesso. Adesso mi sto sentendo. Allora, cosa è successo? Ho usato uno di quei piedi di schifo, no? Di quei piedi che quando poi giocato il soldato non si sciogliere, di plastica, per non stare a cercare che c'è un garage, il pacco dove c'è la roba del baracchio, deve essere già sciolto tutto dentro. Cosa c'hai, Bruno? Gli Amphenol? Non ti ho sentito, stavo spiegando che ho usato un PL di quelli, casca di Bacchinite, perché quelli di Bacchinite li ho, ma li ho conservati, dovevo cercare di trovare, dato questo, ma deve essere che c'è qualche, si è fuso dentro e ammazza, boh. Bacchinite sono gli anfero, che sono i migliori. No, gli anfero sono altri, ci sono i Bacchinite, quello a marrone, e poi ci sono gli anfero. Bruno, come ti sei arrivato di segnare, per favore? È troppo forte, no, questo segnale non è alto, ma da chi non ha quelle lucette LED, non ha lo smitter, dunque non è molto, sei molto forte come al solito, dai. Perché qua c'è un problema stazionale, non capisco cosa sia, deve essere che il vento mi ha toccato la molla, anche se l'altro l'hanno piazzato l'anno scorso, tutto nuovo, filo nuovo, tubo nuovo, antenna nuova, strano, però sta arrivando molto forte. Io, guarda, sono vicino a Canica adesso e sei sempre a fondo scala, Magari segna male questo cazzo di roba, cioè si è rovinato, che ne so. Sono incazzato, mi hanno venduto questo rosmetro e non sono mai riuscito a farlo funzionare perché è diverso da quello che avevo io una volta. Sono andato a comprarne un altro da GBC e non ne aveva, sono andato da Fusaro e non ne aveva, ne aveva uno che non mi piaceva e dunque non so mai se ho stazionario, se non ne ho. Bruno, come mi ascolti in radio? Forte, forte, bello, chiaro, molto, molto chiaro. Gianni è troppo forte e mi arriva un po' saturo. Io sono usato con il microfono super. No, tu stai, vai bene, vai bene. Adesso sono a Canica, quando sono allontanato forse sento anche meglio. E posso anche aumentare di radio? No, oh, vai bene, vai bene. Va bene il radio, va bene il segnale forte, anche Gianni è molto forte, però va bene, ragazzi. Tu sai benissimo dove sono io, dove Gianni. Sai che io ero a posto di Gianni, era diverso. Purtroppo io sono fuori, nascosto un po' per quella zona. Aspetta che sto entrando in ufficio un attimino, sto andando, già non so, deve avere il mio trabacco, devo entrare un attimino e poi richiamo fra 5 minuti e rientro, dai. Ok, Manuè, ci sei? Ehi, già ci sono, sì, e tu, tutto a posto? Ehi, è tutto a posto, Manuè, non ci ascolti bene, sì? Ehi, a voglia, ascolta me, Torì, io c'era un faretto bruciato nella specchiera, no? C'ho il faretto. Ho provato a collegare, non funziona, né una nell'altra. E chissà come te l'hai collegato. Dai, ti faccio una scappata domani se vuoi. No, aspetta, dai, in caso è le compro tutte e due. Quando le compro tutte e due ti avviso. Se ne prendo lì da Bricomat. Progetto lì, non ho sentito. Perché adesso può durare dubito. Ho detto va bene, quando è mi chiami e avvertiamo. E ricordo tutte, secondo me si sono se bruciato brulato, come stava dicendo Gianni. Ci sarà qualche cosa. Perché una funzionava che si era bruciata, insomma, non funzionava più, andava solo una, dopo un paio di giorni si è abbassata anche l'altra, non si vedeva quasi nulla. Ma io ci riesco a farlo. Ah? Ci riesco a farlo. Ah, cosa ti dici? Io casomai sì, una pluga la posso fare, ma hanno bisogno che collegamenti così. Ok, dai. L'importante è che la tua volta no, diciamo, ho risolto il problema di tua zia. Il cazzo si è risolto, l'ha risolto sì, ma è come mentira. Cazzo da più di 30 anni che non vuole di 30 anni. Minimo minimo, allora, fate il calcolo, ero piccolo io. Minimo 40 anni. Vabbè, io metà, ci vediamo come erano i figli per carizzare, per via pietà e poi. Gianni, ripeto. Vabbè, dottore, ci sarà qualche cosa dell'interruttore magari, se come è acceso si è fulminato. Ma basta che anche sbagli i figli, quindi, attenti. Si è staccato anche il filo che porta la fascia, perché lì lo trova fisso nel faretto, la palina che si sia, e c'è un interruttore che ti blocca la fase e te la rimanda, capito? Che fatti? Stiamo uscendo con un innesco, come l'ha fatto per poco tempo, e l'ha fatto due volte e poi guarda. Io? No. Allora, te lo ripeto, non ho voglia già, c'ho lo spinotto del microfono che è tutto aperto, soldature grosse, vuole voglia di apprezzarmi che non la giocare, la verità è. Infatti io stavo usando il microfono male. Ma le cose più grosse non puoi guarire. Ecco, proprio perché questo è più piccolino, me ne parla da Mallucci, non la giocare. Mi è rimasta tutta la gara, fantasia. L'ho detto io, sta seccando. Dove vai? E fatti un brodo di giuggiole. Ciao Tore. Ciao Tore. Buonasera a tutti. Che te bubu. Fate che giuggiole. Bisogna rimanere calme, che sennò si brucia tutto, l'interruttore. È partuto. Ehi Tore, adesso c'è Mattonino, il maestro elettricista. Ed è giusto tutto. Ah, non è l'interruttore, to. Secondo me ho collegato male il filo, ho provato diversamente, lo stesso non funziona. So, devi trovare i fili sti. Cos'è? Gianni, lo scopri di nuovo, abbassa un pochettino. Ma ho detto, se è andata la prova, bene va così. Abbassa ancora. Ma vai da gomma. Prova. 1, 2, 3, 4. Ecco. Non vado vicino al microfono, non scopri di nuovo, mi veramente ci sono un buone, cara. Allora, in pratica ci sono i due fili che escono dal coso della... della specchiera, poi i due faletti c'ha quattro fili, no, due, tre, allora due, sì, quattro fili, e ho provato a collegare sia due da una parte e due dall'altra con i mammuti, non lascio collegarli così con i mammuti su, e non va, collegati come erano prima, quando erano accesi, Poi, i due fili, uno è il neutro fisso e l'altro è il ritorno dell'interruttore, che è la fase, capito? E non funziona, io li ho ricollegati come erano prima, capito? Non è che la giù collegati così alla mena frutta. E non funziona. Adesso provo a comprare due faretti, torna, che li avevo presi nuovi, cosa, ma neanche un anno mi hanno fatto quei faretti. Aspetta, due faretti. Ma questo sono i porta lampada, cioè io adesso non ci capisco come ce l'hai la specchiera tu. A me che fare un voto, perché non voglio che sbagli comprando la roba. Ma già c'ho la misura, sono da 70 sono di diametro, di foro. C'ho la molletta, c'hanno i buchi della specchiera. E i faletti di tuli che c'hanno la molletta che incassa nel canubile, capito? Vabbè, scusa, se li compri uguale, dai, proprio quando ce li ha, mi chiami. E te lo faccio, 5 minuti, 10 minuti, poi mi fai un po' il caffè, siamo a posto. Allora, non c'è problema, anche la sambuca, la grappa, c'è di tutto, c'è. Ma certo, noi non ho sentito. C'è anche il sassiccione. Ma che sassiccione? Sassiccia, formaggio, porcetto, tutto. Ciao Luca. A me non mi gusta. C'è Bruno, E sono rientrato. Le state sovramodulando. Vai, prova a pompare tutti. Chi è che c'ha il dito veloce? Ma che quello bianco lo fa vita? Fai vita, poi. Mi sto scendendo adesso dall'ufficio, sono entrato un attimino a fare una commissione e adesso mi sono rimesso in movimento, sto salendo da Canica. Sì, ma adesso ti ascoltiamo bene, ma deve essere tu, hai messo male lo spinotto, guarda, è saldato male il PL, capito? Ah, ma io me ne sono accorto quando stavo saldando che si è mosso l'affare positivo centrale, si è mosso, l'ho messo dritto, deve essere che all'interno si è fuso anche dentro e ha fatto un falso contatto, perché come l'ho mosso il piede, l'ho tirato un pochettino e sta funzionando, ma ripeto, ce li ho i PL buoni, ma sono dentro una scatoletta, li ho conservati in garage, alla mandronia di Zicardi, ne ho preso uno di quelli di plastica che mi aveva dato Fusaro, cazzo, ma sei sciolto tutto. Ma non servirà nulla qui perché li usate. Poi la saita, le tappite, ci sono quelli alpero che sono buoni, li copri 10, costano un po' però almeno sono buoni. E dove si trovano? Su internet, metti PL Alberon, vendita PL Alberon, mettelo là, è su Google. PL Albero? Alfenol, Alfenol con la F. Albero di pera. Alfenol. Vabbè, già guardo, me li prendo un po' perché sono sempre utili. Ma cosa sono le bacchirite? Sono di quei libri che ci sono, con quelli non sbaglio. No, perché una volta, 15-20 anni fa, questi piedi li avevano rifatti, che erano appena appena più scuri, sembravano le bacchirite, ma non lo erano, perché i vecchi, quelli che dico io di 40-50 anni fa, quelli erano proprio bacchirite, erano resistenti al calore anche. Quelli che si avvitava, direttamente al piede senza avere un riduttore, si avvitava, come si dice, la massa. E avvitavi sulla massa, non dovevi mettere manco un riduttore. Ma non mi piace la reggis, a me piacciono i vecchi piedi, ce li ho anche 3 o 4 di quelli vecchi, siccome ho messo a posto in garage e dentro la scatola ho messo tutti i cavi, tutte le cose che avevo, ma non sono buttato in tutta terra perché chissà dove ce l'ho messo, e ho preso uno di quelli plastica e l'hanno usato. Allora di BC già ce ne ho, ma ti rimasto in magari, gli ho chiesto, non ne ha, già sono quelli di plastica. Gianni, 0,95, Tampero, PL, 259. Sì, costano tutti, però prendi quelli che ti occorrono, non è che le devi pigliarsi 4. No, basta 1, 2, non di più, sono buoni, lo so. Ma poi ci possiamo prendere anche una busta intera di video, se ci mettiamo d'accordo e ne prendiamo 2 per 1 e via. E si può fare anche quello. Forse conviene fare così, perché il cazzo metto ordinare 2 PL, capito? Ma io 2 li prendo, se li ordinate 2 li prendo, non c'è problema. Perché servono sempre. Anche perché io ho comprato il piede da Fusaro e non avvitano agli apparati, c'è la filettatura diversa, c'hanno. Il conto c'è dietro, circa PL, più c'è la spedizione, si divide, ma non spendi neanche 10 euro, capito? Si può ordinare. Quanti siamo? 5, 6 persone che lo vogliamo e si ordina. Ma 10 euro uno? No, tutte e due, no? Aspetta, forse questa intenzione, ho sbagliato. Fai 14, 15, ho detto meno di 20 euro, dai, fai 18 euro, perché c'è la spedizione, poi fai 17, perché? Ma già 14 euro 2 PL, più c'è la spedizione, già si divide, quindi più siamo è meglio, eh? E meno ci costa la spedizione. Infatti. Se si decide, se qualcuno vuole fare l'ordine, io sono pronto, 2 o 3 me li prendo. Io 2 o 3 lo stesso me ne prenderò anche chiusi. 2 li lascio a me. Tanto io ho già così di garage, ma almeno 2 o 3. Allora io ho provato tutti a fare anche una cosa. Ho tolto da quei PL e quelli bianchi solo la ghiera e l'ho messa, ho smontato lo spettore, ho messo quella ghiera di quello bianco in quelli che non avvitavano. E lo sai che non ci arriva, nemmeno quella ghiera lì ci arriva. Io ho solo quelli fissi addirittura che non puoi mettere, quando metti l'RG58 non puoi mettere diciamo neanche l'RG213 o l'RG8, perché c'è il coso che è fatto sul sappo praticamente, piccolo, e un campo più fino dell'RG58, pensa un po'. Ne ho 2 di quella, che schifo che fanno, dai. Invece voglio fare un riduttore che tu puoi togliere il riduttore e metti l'RG8 o l'RG213. Oppure metti il riduttore e fai l'RG58, capito? Quelli sono i migliori. Beh certo, sono migliori, ma sono migliori anche come resistenza al calore, perché quando tu vai a saldarli quelli lì, ma perché quelli sono fissi, sono già fatti quelli, vero? Quelli che sono chiusi, diciamo. Sì, sono già fatti, proprio dalla fabbrica, capito? Se tutto di quello lì non riesce più a usare quello PL, perché è fisso, non riesce a smontare niente. Comunque queste PL appena costavano 2,50 e ce lo so che 0,95 in 1. Va bene, Dai, non lo fischiamo. Come mi sposto il coso? lo so. E cosa ci vuoi fare? Devo pure mettere. Decidimi di saldare come si deve, dai. Ma questo che microfono è? Asciure! Fate rompere no il collegamento, scusa, eh! Non ho tempo già! Entro pure a Poturampo, capito, poi c'è. E poi devo assunto mettermi in cucina, a mangiare roba buona, e poi mi ti coge ciccia. Non è meglio mi senti? Gamba! Adesso qui sto andando, sotto a casa di Gianni e gli spacco l'antenna. Aspetta che attacco l'altro apparecchio. Qui che non avresti sciogliere l'antenna, tutte e due. Adesso, adesso anche le puzzette del baracchino. Aspetta che ne cerco un angolino più su qua. Proprio sotto casa tua vengo, te lo sto dicendo, ti spacco l'antenna, A me lì, bene mi ascolti, bro. Tu sei una bomba. Tu sei perfetto, segnale forte, voce nitida, bella. Io a Gianni ho sempre troppo forte, devo abbassare un po' il microfonino. Non è pulita quella Gianni, è troppo incasinata pure. Tu alza pure il microfono, se lo avvicini alla bocca. E la bocca non ci capisci niente, ragazzi. La parte peccata. Miau! Ha cambiato baracchino, sono tu di che il baracchino, bro. Che roba guarda. Aspetta un attimino. Questo qui lo devo regolare. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh ragazzi, vi saluto, dai, che domani mattina è 5 e mezza, mi devo alzare. Ciao Tore, c'è l'attore, Gianni, Torino e Bruno. Ciao, vi ascoltiamo tutte le migliori. Vai Tom. Ciao, ciao, ci sentiamo, vai, vai. Ciao Manuele, buon pomeriggio, Tore, sei parcheggio. Sì, si sarà pescato, vabbè, ciao a tutti. Tore, quando c'ho quella roba lì già ti chiamo, dai. Va bene, già lo sai, il mio numero ce l'hai, io ce l'ho sempre acceso, 24 su 24. Sì, ah, ciao a tutti. Ciao, ciao, buon trabacco Manuele. Ciao, sono buon riposo, poi domani mattina, buon trabacco. Cava di cava. Bruno, e con questo come mi senti? È troppo forte, aspetta che sia sotto casa tua e ti spacco l'antenna, ti spacco. E quando sei sotto dimmelo. E che ti sarà quello a spacchina? Quando sei sotto me lo dici che attacco un millowatt. Non c'ho nulla io, non ne ho nemmeno di geniale, non ho niente, c'ho l'apparecchio e basta. Faccio offrire un bicchiere del vino. Sei con me. Mi sto parcheggiando nel parcheggio. Dove stai salendo qua? Sul parcheggio qua 5 minuti e poi scendo piano piano. Ma è una pianica, mi sono sceso dove trappa capo io una volta per una soluzione. Ho voglia. Ma ti sentivo bene anche poco fa, quando poi ho aggiustato la roba ti sentivo bene. Ma io ero convinto che fosse il microfono, vai, non amare, vai. E invece ho toccato l'antenna, te la tenendo sicuro, ho detto, gli ha fatto i collegamenti, freschi freschi, ho detto, gli ho messo il PL nuovo, la razza che c'è nell'aria. Ma io cosa ci ho detto? Controllo il PL e l'antenna, ci ho detto quello, che era sicuramente un problema di massa. Il giorno di Babanza. Avanti Tori! Sì, sì, di quelle zone, Non è meglio mi senti adesso, sono più diretto verso la tua zona. A bomba sei qua. Sì, a bomba, voi, a macchina, Tori. E cosa vuoi bombare? No, lì è forte, dai. 9:20 la radio 5. Per essere macchina, con questo antennino piccolino già va bene, dai. E tu sei per me, mi senti? Ah, tu hai una bella radio, io sono invidioso della tua radio, perché arrivi forte, ma forse il microfono lo tieni basso oppure senza amplificazione, dai. Sto usando lo sciure, sono pesante, capito? Ecco, lo sciure è forte, lo sciure io l'ho avuto. Ieri per le 50D c'era qualcosa, è quello grigio che si solleva? Cappa, c'è la S rossa e il volume rosso. Poi lui ha messo, io lì, non ti preoccupavi tanto la rimane, no? Una volta già detto, non a me. Lui è quello che non lo va a me e poi non me la va. se voi vi ricordate, a Sassari c'era una persona che usava lo sciure, era una bomba, era forte e chiaro, molto forte e chiaro, la buon'anima di Mario, bravo Charlie. Sciappa, oh, lo sciure ce l'aveva anche Gianfranco Baltimora, me. Io mi ricordo la modulazione di quelle... la parigliatura che va a bella. E altra casa abita qua, vicino a casa. E allora, che fine ha fatto Charlie Bravo? Come? Che fine ha fatto Charlie Bravo? No, Mario Bravo Charlie. Lo so, e c'era anche Mario Bravo Charlie, calmati. Poi c'era anche Charlie Bravo Grifonti. E Tataria sono molti tutti, è molto Bruno, è molto Elio, è molto Mario. E' una fritta, lo vedo sempre, che abita più vicino a casa mia, a casa di Gianni. Sirio, una buona decina d'anni. Andavo sempre io quando facevo la guardia a Villa di Salis a fare compagnia la notte. Oh Bruno, e tu ne hai già sentita a Prascopia? Bruno. Sì, dimmi. A Prascopia te la ricordi? Dove chi era? Che cazzo chi era? Mia Tempio, anziana, ma che lei non ci sarebbe più poverina. Ah boh. Come ne conoscevo non mi dice niente. Modulava con Renata, con Rosetta. E un giovane orizzonte, te lo ricordi? No, ma forse sono di quelli che sono arrivati dopo. Vabbè, io ti sto parlando degli anni. Dunque, 76, 77. Ma non mi attiro mi dicono qualcosa, ma magari non sono persone che ha frequentato un po' di a quei tempi. C'era anche Ostro, tarda della notte, venita. Allora io quando c'era Ostro che non entrava spesso, io entravo come Tonino San Nicola, non c'è Tonino, chi ha Tonino San Nicola? Ma quello era il periodo di Maccallea, allora c'era il nostro Gianni, il Cudi, un periodo, Giuseppe Velastre, che non so quello due dell'Astrepo, che poi credo sia molto anche lui. Se continuava a nominare, sei sempre di Pacchisio. Ciappa, via, poi c'era Saturno, Salvatore. E aspetta che c'era. Ma dopo è entrato c'è Serie 1, c'è Petrino, buon'anima. E venire a venire, c'era anche Coso, aspetta com'era quello lì, che c'era il negozio, i miei cazzadenta, di merceria, porca miseria, non c'era solo lì qua, non me lo ricordo. Poi c'era Pupitra, sì, pensolato. Toro Chopin, luce dal mattino, venire lì. Io ci sono già la vita, mi danno 40 anni frequenza. Ma tu lì, quella di mia cazzadenta che dici tu, che aveva la merceria, modulava con una macchina uguale al mio, un toccai 5008, dice 500, 5008, toccai quello 23 canali. E com'era il mio aggiro che non ricordo? Pina mi pare, Pina, non mi ricordo come è il nome nativo, Pina di nuovo si chiamava. Poi c'era quella che c'aveva l'agenzia Bianchi che trova la fida a Pipinella, te lo ricordi? Sono stati tanti, veramente a Rosa Verde, a Giovanni Sao. Quando Piero Drago da Pulce Fuoco la Ianna, aiutami, sta mettendo a fuoco, e un'entrata ha fatto lì, mi sembra un sentiero piduccio. Comunque ingegnoso Rosa Verde, anzi mi ha fatto vedere che c'aveva un ferro attaccato alle 220, condensatori, quando si è voluto toccare la Ianna, c'era il scintillia. Ma c'era sempre il casino la notte, no, rompeva le palle. Allora, un giorno Giovanni Girotondo, non so se te lo ricordi, tu Giovanni Mura, Girotondo si chiama, il periodo di Sciaro, quel periodo lì, no? Siccome lui aveva una grotta, no? E aveva il cavo dell'antenna che usciva fuori, e allora andava Giovanni e gli metteva gli spilli nell'antenna, tutti gli spilli per quando gli ammassa l'antenna, cazzo. Girotondo è cosa? Siete sovramodulati. Ho detto, non parliamo di Altalena. Te lo ricordi, Venezia Francesco, Altalena. Ah, boh. Ti modulava sempre la notte con Rosetta Renata. Sai cos'è? Sono risultati tanti. Ero vestito, ho fatto un peggio del coglionito. Ma cosa è il coglionito, Cristo? E Dio, cosa vuol dire? Forse posso sono più grande di te, però. No, non credo, ma le tue sono. Cazzo. Ma stai scherzando, io ne avevo 3 o 4 anni più di te. Che anno sei tu? 54. Idem. E vai. settembre come ho sempre trattatemi, però non lo dimostro perché mi può capire ci dice nemmeno. Io avrei girato le torne se sto facendo una. Io le faccio 70 a novembre. Allora sono un mese più grande di te. Ho 2 mesi anzi. Io ho saputo come tu dici, io ancora sono più giovane di te. Avrei giurato che ne avessi di meno. Perché io me ne porto bene, io sono per l'argillo, invece tu sei già visto che adoccio. Giro tondo dal cancello di Norto, se non sbaglio. Che cosa già? Ho detto giro tondo, quello che ha nominato poco fa Bruno, allora fratello di Norto. No, Norton è il fratello, si chiama Costanzo, Norton è l'Antonello, Antonello Pastora, Girotondo era Giovanni Mura che abitava vicino ai giardini su, più in su di Antonello, allora molto la parola lì, Antonello Norton e il fratello Costanzo, che non mi ricordo come si faceva chiamare, che il socio era quello che abitava a Sacro Cuore. Sì, la moglie si chiamava, riconosci bene, e i frigoristi sono, dai. Oh Bru, è scandalo al sole. Sì, ma c'è la mia cosa. Allora, quando stavo facendo apposto garage, no? Un paio d'anni fa. Stato scatolone di QSL, roba, e c'era un blocco note, se mi sono ricordato di decine e decine e decine di amici che non sarei mai a ricordarti di Francesco Briscolone, che andavamo a Parigi a Ciappallo e nei paesi, ma è una cosa, mi sono ricordato di Lucio del Mattino, tanta gente. Cambi con il marito, Torino. Viale Sicilia. Torino. Capitano, come ci chiamava? Gianni. Si chiamava Sasso di cognome. Aspetta, dimmi già. Ho detto che intrepido era il tuo amico. Amico tuo era. Sono giocato una funerale, ci ho fatto la diretta, ci ho fatto. Ma tutti sanno. Tutti non si vecchi, adesso come sanno a pensare. Se non c'è il casino. Ma io faccio i micidi che va via, fai i tuoi parafacchi e paria. Cosa volevo dirti? Sì, Luisito, te lo ricordi Bruno? Sì, a Luisito, lui, Sasso si chiama. Sì, ma poi c'era la figlia che modulava, che poi era la 50, come cazzo si chiama? Franco California, era il socio. Non me la metto, lì sono tante nome atipiche, sono passati troppi anni, capito? Comunque c'era sempre gente, tutti i canali. Poi mi ricordo che con Tony Chopin si faceva Portobello a canale 15. Facevi rotte di 20-30 persone, non riuscivo mai a parlare dalla gente di vita, ma passata di portanti e di migliaia di giro e sul disco io penso che tutta la notte ci modulava, tutta la notte. Era bello, dai, parlavamo anche con la Paranautica, il canale 1, io parlavo con Piano Pescio, ecco, però. Quante volte si dalle 7 di mattina ascoltando le gare che faceva? Andavamo in paese, piazza a trovare gli amici civica, se buonasera ci sedevamo in macchina a mezzanotte, alla una, e qualche anno di paese ci facevamo le nottate, lascia perdere, ma avevamo anche l'associazione, andavamo a ballare assieme tutti in diretta con Monforte, il presidente di Monforte, ve lo ricordate, quello là, e avevamo la sede anche. L'Avio Club Nord di Sardegna vi ho lanciati 5. Ah, te lo ricordi Bruno, Martin Pescatore? Sì. C'era 7 bello, c'erano tanti, ma potremmo nominarne centinaia. E poi c'era anche l'amica tua Bruno, Itria. Cazzo, Itria, buon'anima. Se dovessi raccontarti, non la nomino per male. Ma io ti posso assicurare che se non sono morto in macchina con quella lì, vuol dire che camperò 200 anni. Sono lì, ma via una Lancia Fulvia Ragatto. A chi di tempo è la macchina a vedo, eh. Addirittura due di Manzano, andando a posto d'ora, a 180. Vento una macchina, che arriva ne pulia più, ma lascia perdere. Me ne veniva sotto casa alle 2 del mattino, cazzo. Lasciamo perdere, vai. Se la conosco, sono pure a casa sua io, Lancia Ragatto rossa. E una volta sono andato lo stesso a casa sua e ci ha trovato una fila di civile mazza di varie persone che proprio non credevi che arrivassero al punto di andare da Itria, via Biasi numero 7A, Cappuccini. Ma non era una Bugatti quella lì? Io ero andato per, io la prima volta questa lì, ero andato per la figlia, perché la figlia parlava, ma sì, ma no, Susina. E da cosa era successo? Che Capitrina era una bella ragazza, si era messa con un CB che era il figlio di quello che aveva la pasticceria via Ansicola, via Rosello lì, col CB 1000 era invalido, non vale anche a Ruzzina, e la mamma non voleva, e allora mi invitava a casa sua e io andavo e da voleva che magari fargli ubriare la figliola, ma per farla staccare da questo ragazzo, va. Ah, sei, quella era Piana comunque, dai. E Daniela era la figlia di Itria. Comunque, no, Gianni, non era Bugatti, era Lancia, Zagato, Rossa. Scusa, sono il telefono, attimino. Un QX, un attimino. Che la faccia va sempre via Roma, la parcheggiava vicino al CB. Ma lo sai perché? Perché lì c'era lo studio del marito. Lo sai chi è il marito, sì, il pittore? Sì, aia, sì. Sì, sì, lo so. Medellina. E allora, c'era lo studio con la Roma, lei era una pippa lì. Ma proprio io l'ho visto, no, tu ero me. Vent'anni, non so quanto vanno lì. E dove sei a casa, dopo di quei minuti cominciava a sfrumazzare con dica, anzi a furia al ragazzo, rossa. Sotto a casa, boh, cazzo, vattene via, no, allora dovevo farà e partire e andarci a perdere. Abbiamo combinato, stesso. Ma dice che era un po' l'infoma, lei così. E insomma, i ragazzini gli piacevano? Vabbè. Ma io non ho mai avuto l'onore di andare. No, ma questa è più si riusciva, ma noi, lei veniva anche a fare con noi, siamo arrivati a Cocco, te lo ricordi, arrivato a Cocco, sì, ma e avevamo una greppa, veniva a parlare con noi, ma ne abbiamo combinato di tutti i colori, allora c'era, se capita di parlare, parlare con Aldo, che ti dice lui cosa cazzo combinavamo, avevamo anche un posto, una torre, non dico altro. Ai. vabbè, comunque, ragazzi. Siete passati e ti divertivi con poco, ma che andavi a dei paesi, con amici, con l'imbriaghiera, e poi c'erano molte signore che purtroppo bisognava fare compagnia la notte perché i mariti lavoravano, facevano i turni di notte e noi dovevamo sacrificarci, andare a trovare a casa, fare compagnia con lavori. Così è. Ah vabbè, io andavo a provare. Mi sa che ci ho frequentato una vita con Vittorio, aveva anche un baracchino, Vittorio Marra, sta abitando al mondo. Non mi ricordo il nome nativo, abbiamo frequentato una vita. E io andavo alla Lava di Curi. Vabbè, sono andato tanti anni alla Lava di Curi, io sono andato a tutto. Se c'era una discoteca in giro, stai tranquillo, che non me ne pesi una, E anch'io, Siamo andati a Crescera a ballare, se ce ne ricordi, un po' di tempo fa. C'era Aldo, Graziella, tu, tua moglie, io con Iliana, siamo andati in discoteca, però tu non hai voluto ballare perché tocchi la dolore di schiena. Ma non mi ricordo, dove siamo andati? Ma eravamo con la grazia di CB o per conto nostro? No, per conto nostro. Per conto nostro siamo andati, ma ti parli tanti anni fa. Tu mi hai detto che mi mal di schiena, io a ballare in no che c'ho mal di schiena, già non ce la faccio manco a muovermi. Allora io sono andato in pista a ballare con lo stesso, non c'erano problemi. Però siamo andati tutti in greffa. Sì, ma ti parlo di un milione di fammi blu. Sì. E io poi ho cominciato a pigliare scurti con la schiena e quando andavo in discoteca andavo per rimanere in compagnia, almeno una cosa. Però quando ero un po' più giovincello, già hanno aggiornato di chiedere in discoteca e si vede a me, ma dappertutto avevamo il visto, la maglia sardina, avevamo appena pochi anni fa andavo anche a Pontocello, andavo a discoteca di sul mezzo, ma lasciamo stare, non so. Ho frequentato lì gli anni scorsi, dai. Ho capito, e vabbè, anche io già ho girato diverse discoteche anche in continente, quindi sono andato anche a Roma, discoteca, figurati. Ma era un altro tipo di discoteca, un altro tipo di approccio, un altro tipo di fanno, perché oggi, cazzo, si ande, ma te ne ci mancanti, cazzo, me ne so poco, scimmie, cazzo, droghelle, fatti cazzo, prima poteva partire una scatottata, ma eri tranquilla, al mito un po' slomo, ma questi ultimi anni, ma non si può più andare dopo, cazzo, ragazzine, rompi coglioni, cazzo, che era la prima occasione che fumano, ma vai a fanculo. Allora, adesso stavo cercando di ricordarmi, era il ballo degli infermieri, che avevano organizzato gli infermieri, praticamente eravamo andati a Ussi, questo me lo ricordo, alla Dama di Curi, ma la Dama di Curi a Rocca, no, Scalaruia. Lì ho la riporta, adesso mi sono ricordato, perché ci aveva procurato i biglietti Aldo, perché lui, questo ballo era organizzato dalla sala operatoria, adesso mi sto ricordando, lo vedi? Sì, sì, sì, fai memoria, io ne ho di più, Poi abbiamo fatto anche altri anni quando organizzavano, tenendo via Milano, adesso c'è quella discoteca, gli ultimi anni la organizzavano lì e andavamo a ballare lì, sempre con quell'affare degli infermieri. No, lì non ci sono mai andato, io sono andato a Ossi più volte, anche ce lo dicevano, grazie a Grado, se volevamo andare, prendevamo i biglietti e andavamo ogni volta. Per più volte siamo andati. Sì, sì, lì sono andato un sacco di volte perché lui procurava i biglietti. Comunque, è rientrato Torino, rientrato sì, benissimo, solo, è 8:10, tra un attimo io metto in marcia, me ne siamo piano piano. Anche io, fra poco devo portare giù il cane, e fra poco me ne vado anch'io, alle 8 me ne vado, mi tempi quelli blu. Sì, non lo mi manca, comunque, ciao, se ti cambiano a noi urbano vanno bene, la discoteca oggi ci sono presenti, ce ne sono pochi zombie, e su gatto, si perde, gente affaticata, gente ubriaca, gente drogata, ma va a far su, adesso diciamo andiamo tutti più tranquilli, là. Anche loro vogliono la loro parte, peccato perché questi stanno diventando tutti giovani, no? Non so se c'è ancora questa discoteca che c'era qui su via Milano, dove andavamo gli ultimi anni. Ah, dovrebbe esserci ancora, non lo so, perché io lì non ci sono mai andato, la verità. Perché è più una discoteca per ragazzini, andavano i ragazzini. E adesso come balla era tutto diverso, prima c'era la marcetta, rock and roll, a me mi piaceva lo shake, tutti i balli che si facevano divertire con me. E ho conosciuto anche un po' di gente, discoteca, un po' di ragazze e cose. Allora si divertiva prima. Adesso è diverso, adesso ci sono più piste, ogni pista fa la musica, ma sono degli drodon, senza essere cantate le musiche, sono tutte cose, sono proprio martellate che ci danno la testa. Si sciogliono da te. Vabbè, io pure ho frequentato anche la e poi ho smesso quando ho cominciato a tagliare i colpi con la schiena, facevo altri colpi. Vabbè, vediamo se l'abbiamo fatto. Sì, vabbè. È meglio avere due ricordi, no? Meglio che averli brutti. Ehi, vabbè, ancora io. L'unica cosa che quando siamo frequenti adesso dopo tanti anni, che come di la gente comincia a mirare, c'è molto, come più, è un po' malumore perché tanti i miei amici che abbiamo presentato, ma tanti, sono più, per Agostino è stato un colpo di fulmine, mi hanno avvisato che stava molto male e poi ho saputo subito che era morto, sono andato anche a funerale di Agostino, ma era un periodo che io non frequentavo più perché lui si era allontanato, andava con le guardie zoofile, io frequentavo lì al Ciso, ma ancora quindi un po' ce l'avevamo tanti, ma eravamo amici, amici, eravamo sempre insieme con Agusti. Cosa vuoi? In ritardo, non mi ricordo, e poi ho trovato tutti i diritti, e tutti mi hanno fatto preso da Roma Maria, e poi mi hanno fatto preso da Roma Maria. Poi io l'avevo trovata la cavalcata con la moglie, con Alessandra. E due mesi così domani al lavoro, ce ne stavamo andando, lui mi ha detto, no, cosa lavoro? Già sono già due mesi che sono in pensione, ah meno male adesso non ci penso più a alzarmi la mattina presto, cosa è passato? Un paio di mesi e se ne è andato. No, vabbè, mi è dispiaciuto perché poi sono andato al cimitero, ha fatto una ricerca, no, nel senso, quando me l'hanno sepolto e non risultava, alla fine abbiamo trovato una persona che ci ha detto, chi quello lì? No, dice, la moglie ci ha portato le ceneri a casa, ma va fa' culo, neanche un fiore a mio amico ha potuto mettere, che era Santino, come io lo chiamo Santino di nome, ed era nato lo stesso giorno e lo stesso anno, e lui è nato il primo novembre del 54, tutti e due lo stesso giorno, ed è l'unica persona che ho conosciuto in tutta la mia vita che si chiamava Santino come me. Hai visto? Vabbè, purtroppo sì, anche Truidi lo conosco, l'ho avuto anche come compagno di scuola, figurati. A Pietro abitava nel mio portone, l'ho saputo anche lui in ritardo, anche lui, ma mi disse come si va nella funeraria di perché lui abitava sopra e io sotto, no? Da ragazzino lo conosceva, e ha preparato il radio, non sapevo niente. Era la numero 6 a scuola, e lei classe con me. Lui abitava nel mio portone, lui ha sempre anni che abbiamo terra, e lui ha molti anni meno di me, da ragazzino, da sta morendo un dirigente, mi sta accogliendo piano piano che sto diventando troppo grande, perché più gente muore più ti accorgi che stai diventando grande tu. Sì, no, il problema è pure un altro, io non stavo avendo dubbi, che tutti i cittadini di vaccini abbiamo fatto, se siamo attenti, perché ho sentito anche i giorni scorsi che hanno tolto via quella AstraZeneca, quel cazzo di vaccino, perché la gente stava morendo di trombosi, un sacco di gente, l'hanno tolto da tutto il mondo e noi li abbiamo fatti quei vaccini, è bello che l'ho fatto anche io quello lì, dopo il primo che ho fatto era AstraZeneca, poi gli altri ho fatto Pfizer. Anche io, tutti quanti abbiamo fatto il primo quello lì perché prima c'era solo quello e poi gli altri abbiamo fatto gli altri vaccini, però io ne ho fatto 4 vaccini. Io 3, il quarto l'avevo fatto. Guarda, se l'avessi saputo ci abbiamo nessuno, perché sono sempre problemi, io sono così impiegato, a mal di gola, cosa, ho fatto 10 giorni di antibiotici e di cortisone, il mese scorso sono tornato a capo, non stanno venendo dubbi in caso di questi malanni che abbiamo, che siano dovuti a questi cazzo di vaccini. Io dolori che non avevo mai avuto, cioè sì, qualche luno mi veniva, ma adesso tutto il corpo ha dolori, tutto ha dolori, poi la mattina quando mi alzo l'equilibrio sarebbe a farsi benedire, ma quello potrebbe essere anche dall'artrosi cervicale, ma è alzato e cagliare indietro, cazzo, ma com'è che non è Darito? Per dirci, tutte queste cose, mal di gola, io canto, a volte quando canto mi si... praticamente la voce mi si diventa rauca di colpo, così. Sono un mese e mese che non avevo potuto, e mia moglie lo stesso, c'è un certo problema. Non sta avendo dubbi di chi ci piace il vaccino, già abbiamo arrivato a noi. Ho conosciuto gente che non aveva detto, morta di infarto dopo aver fatto il vaccino, e dopo due giorni che aveva fatto il vaccino se ne è andato. Vabbè, già io sono arrivato, sono per entrare sotto, andiamo avanti, magari non ci siamo. ok. E a voi non c'è problema, dai, qua sono io sempre. Se paguri non sono qua. Ciao Tonino e ciao anche a te, dai, ci sentiamo, buona serata.